Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Ventesima puntata. Quando si svegliò il martedì mattina, Roby indugiò a lungo a letto, tendendo l'orecchio al cinguettio dei passeri sul mango, al brusio del traffico lungo la strada che portava all'aeroporto, al rumore metallico dei recipienti del latte su una bicicletta che discendeva lentamente la strada. Percepiva soltanto l'eco di una nota discordante in quell'insieme familiare di suoni mattutini. Si alzò e andò alla finestra. Se stavano per scoppiare dei disordini, voleva essere il primo a vederli. Non sapeva con precisione che cosa fosse il disordine. Non ce n'erano stati molti in Canada e in Romania, gli unici due luoghi in cui aveva vissuto di cui conservasse il ricordo, a parte il collegio nel nord dell'India. Anche lì, del resto, non c'erano molti disordini, perlomeno non al di qua del muro di cinta. La spedizione alla vecchia casa dipendeva dal fatto che ci fossero indizi di disordini oppure no. Naturalmente a lui non importava granché di andare o restare a casa ad assistere ai disordini. Sarebbe stato eccitante comunque, ma sentiva che sarebbero andati. Malgrado le voci, negli ultimi giorni non c'erano stati disordini e Mashi diventava sempre più impaziente. La sera prima suo padre aveva dovuto arrendersi di fronte alla sua insistenza. Aveva detto che sì, potevano andare, ma accompagnati da una delle guardie armate dell'alta commissione. Roby si affacciò alla finestra e guardò giù. Il giardino era immerso nella tranquilla luce invernale. Vedeva le ali delle libellule che rilucevano tra i petali dei gigli e della malva rosa. Facendosi ombra con la mano guardò la strada. Il loro vicino era fuori in giardino con una tazza di tè e annusava le sue rose come al solito. Non c'era traccia di qualcosa che potesse essere chiamato disordine. Soddisfatto, scese e comunicò a May e Tridib che era tutto tranquillo. Finalmente avrebbero potuto andare. Uno dei dettagli di quel giorno di cui Roby serbò il ricordo fu che la nonna aveva cambiato sari due volte prima di uscire di casa. Si era presentata alla prima colazione con un sari bianco, semplice, ma arricciato, e aveva annunciato che sarebbero partiti il più presto possibile. Ma quando la loro Mercedes fece ritorno dall'alta corte con una guardia armata e l'autista, considerò se stessa a lungo, andò di sopra e tornò un quarto d'ora dopo indossando un sari bianco con un bordo verde. Finalmente pronti per partire, salirono in macchina e a quel punto la nonna disse di aver dimenticato il regalo per la moglie del meccanico e tornò in casa di corsa. Quando ricomparve indossava un sari bianco con un bordo rosso. Roby ricordava che sua madre, quando la nonna era risalita in macchina, aveva riso e aveva detto qualcosa a proposito del suo essere ansiosa come una sposa che si reca per la prima volta nella propria casa. Ricordava anche come la nonna aveva sorriso e replicato: «Ti sbagli, è la prima volta che vado a casa come una vedova». Lungo il tragitto, Roby scrutava le strade pronto a cogliere segni di disordine, ma fu presto deluso. A Newmarket, per esempio, i negozi erano tutti aperti e le strade erano, come al solito, affollate di gente, risciò e automobili. Nessuno degnava di più di uno sguardo la loro auto con la targa del corpo diplomatico. Strada facendo, l'autista segnalava i luoghi alla nonna. Il Cinema Plaza, all'esterno del quale era fisso un cartellone di Ben-Hur alto più di 4 metri, il Gulshan Palace Hotel, il Ramna Race Course e così via. «È tutto magnifico», disse lei, Ma dov'è Dacca? Poi, subito dopo aver passato il ponte, i luoghi cominciarono a cambiare gradualmente. Le strade si fecero più strette e più affollate, le case più vecchie e cadenti. La nonna adesso era attentissima, seduta sull'orlo del sedile si guardava intorno annusando l'aria. L'auto svoltò in una grande piazza piena di rumori e a un tratto lei si aggrappò a un braccio di Maya Debi e gridò: «Guarda! Il Shador Bajar, dove c'è la Royal Stationery, ti ricordi?» Maya Debi la cinse con un braccio, poi l'una stretta all'altra, ridendo e asciugandosi le lacrime, spiegarono a May che avevano sempre comprato lì i loro libri di scuola quando erano ragazzine. Era assolutamente identico, aveva detto Maya Debi mentre oltrepassavano il negozio, soltanto l'insegna era cambiata, ma la nonna non aveva voluto ammettere neppure quello. Aveva detto con aria fiera: «No, è la stessa insegna, me la ricordo». Pochi minuti dopo svoltarono in una viuzza affiancheggiata da negozi su entrambi i lati. Adesso la nonna non sapeva dove rivolgere lo sguardo, perché d'un tratto i luoghi tornavano al loro posto come un mucchio di vecchie fotografie. Si guardava intorno agitandosi sul sedile e indicando tutto ciò che vedeva. Ecco dove i ragazzi giocavano a football e dove viveva Shyam Lahiri. E quella casa è di Rina, l'ho incontrata l'altro giorno al parco. E quello è il posto dove stava seduto Naresh Babu, dietro il banco in quel negozio di orefice, e con l'orlo del Dotti sollevava la polvere d'oro. L'autista fermò la macchina all'imboccatura di un vicolo. Rivolto a Maya Debi, indicò il vicolo e disse: «Quella è la vostra casa, è là che Saifuddin ha la sua officina». La nonna, colta improvvisamente dal panico, cominciò a protestare. «Non può essere qui», gridava, «non può essere la nostra strada. Dov'è il negozio di dolciumi di Kana Babu? In quel negozio laggiù vendono martelli e articoli di ferramenta. Dove è finito il negozio di dolciumi?» L'autista alzò le braccia al cielo con aria triste e disse: «Non ci sono negozi di dolciumi qui, è tutto sparito, ora c'è soltanto questo». Poi, notando un movimento fulmineo, spalancò la porta e si buttò fuori per acchiappare un ragazzo che aveva cercato di toccare la stella sul cofano della Mercedes. Il ragazzo si confuse in mezzo a un capannello di giovanotti e bambini che avevano circondato l'auto. Mentre li guardava con aria minacciosa, l'autista fece un cenno alla guardia armata e gli disse di sorvegliare la parte posteriore della macchina. Lui avrebbe tenuto d'occhio il cofano. «Eccola!» gridò la nonna indicando il fondo del vicolo. «Guardate! La nostra casa!» Era coperta di muschio e le radici aeree del baniano si abbarbicavano al suo profilo decrepito, ma la sagoma esterna era esattamente come se la ricordava, grande, accogliente e sgraziata. La nonna chiuse gli occhi e non si mosse finché Robby non la prese per mano dicendole: «Andiamo a vedere, vieni». Ma Prima che si muovessero, l'autista si avvicinò ansimando a Maya Devi, le sussurrò qualcosa all'orecchio e tornò di corsa alla macchina. «Che cosa ti ha detto?» chiese Tridib. Ma lei sorrideva con aria sognante e dovette ripeterle la domanda per ottenere risposta. «Ah, niente, vuole che torniamo indietro alla svelta in caso di disordini». Si infilarono nel vicolo, seguiti da una folla di bambini. La maggior parte di loro si appiccicò a May. Roby li sentiva che parlavano di lei sottovoce e una di loro, una bimbetta, fece scivolare la sua mano in quella di May. Adesso vedevano benissimo la casa. Sari bagnati pendevano dalla terrazza in grandi macchie di colore come vernice rovesciata. Attraverso le finestre senza persiane potevano scorgere muri sporchi di fuliggine, la parte alta dei letti velati dalle zanzariere e abiti appesi ai chiodi. Una piccola insegna appesa su una delle finestre del piano superiore diceva «Lutfullah Ismail, Ba Ma Patna» e offriva prestazioni come dattilografo e stenografo. Roby andò in avanscoperta, guardò dal cancello e tornò indietro di corsa. «Motociclette dappertutto», disse sgomento. «Motociclette dappertutto!» Non faccio nessuna fatica a immaginare lo sguardo incredulo con cui mia nonna e Maya Devi accolsero questa ulteriore informazione. Sapevano dell'officina, naturalmente, ma non avevano immaginato che fosse proprio là, nulla, in quella piccola striscia di giardino, dove loro due si erano sedute così spesso, domandandosi cosa succedesse nella casa alla rovescia dello zio. «Non può essere», disse la nonna, «deve essere una bugia». Poi però, davanti al cancello, sollevando le mani per proteggere gli occhi dal calore di un'accecante luce d'argento, vide che Roby aveva riportato la semplice verità. Sotto il vecchio portico era sorta una tettoia di lamiera che luccicava alle fiammate di una saldatrice, mentre un uomo trafficava intorno al parafango di una motocicletta. Lo spazio erboso che loro un tempo chiamavano giardino era disseminato di chiazze d'olio nero e ingombro di tubi di scappamento e manicotti deteriorati. Era tutto cambiato, ma la nonna non ci faceva più caso. Non era la casa che lei ricordava, la casa che aveva costruito per me a Calcutta, ma le assomigliava abbastanza. Riesco a immaginarla mentre si aggira in quel cortile, incurante delle macchie di grasso e dei tubi in disuso, gli occhi rivolti in su ai balconi con le slanciate ringhiere di ferro battuto e inciampa in una gomma bucata mentre va in cerca dell'albero di tiglio piantato da sua madre tanto tempo prima e batte le ginocchia contro un cumulo di manubri contorti fino a che il meccanico Saifuddin la conduce gentilmente vicino a una panca e la persuade a sedersi. Lei allora osserva quella faccia sporca di grasso e si chiede da quale parte della casa sia spuntato questo nuovo parente di cui non riesce a ricordarsi. E Maya Debbie, cercando di riscuoterla dal suo sbarrimento, le spiega dolcemente che questo è Saif ud-Din, il meccanico che le aiuterà a riportare lo zio in India. La nonna sussulta perché si è completamente dimenticata dello zio. Poi lentamente, facendo appello alla sua prodigiosa forza di volontà, torna al presente, rammenta di avere un preciso dovere da compiere, di non essere venuta fin lì per lasciarsi andare alla nostalgia. Odia la nostalgia, la nonna. Ha passato anni a dirmi che la nostalgia è una debolezza, una perdita di tempo, che ciascuno ha il dovere di dimenticare il passato e di guardare avanti e continuare a costruire il futuro. Così ora, piano piano, ricorda il dovere che l'ha condotta qui, il dovere di portare lo zio lontano dal suo passato e di spingerlo verso il futuro. «Ah sì, Jetamoshai», disse rivolgendosi a Saif ud-Din. «Adesso come sta?» Saif ud-Din era un uomo tarchiato e molto robusto, tra i 40 e i 50. Le spiegò, parlando velocemente in bengali, con un forte accento indostano, che non stava molto bene, che bisognava fare qualcosa per lui il più presto possibile. La nonna, annuendo gravemente, si guardò le mani e vide con sorpresa che stringevano un pacco di carta scura. Allora si ricordò perché lo aveva portato e lo consegnò a Saif ud-Din. «Tieni, è un sari per tua moglie». Sul viso sporco di grasso di Saif ud-Din comparve un sorriso di stupore soddisfatto. Le disse che non avrebbe dovuto disturbarsi. Poi si profuse in ringraziamenti e gridò a sua moglie di portare il tè per i suoi ospiti indiani. «Non potremmo andare da lui adesso e parlargli», disse Maya Devi. «Non abbiamo molto tempo. Prima dovete bere una tazza di tè», disse il meccanico con decisione. «Dopotutto siete venute fin dall'India. Inoltre sarebbe inutile per voi andare da Ukil Babu da soli. Dovete aspettare Khalil». «E chi è Khalil?» disse la nonna. «Khalil e la sua famiglia si occupano di Ukil Babu», le spiegò Saif ud-Din. «È una brava persona. Anche lui è arrivato dall'India, da Murshidabad, nel Bengala. È un po' sciocco, ma ha un grande cuore. Ecco quello che dico sempre alla gente. Io dico, forse è un po' sciocco, ma ha un grande cuore. Altrimenti perché si prenderebbe la briga di occuparsi di quel vecchio uomo, per di più indù, quando avrebbe potuto senza difficoltà sbatterlo fuori e tenere tutte e due le stanze per la sua famiglia?» Si rivolse a Tridib e disse, «Siete mai stato a Motihari, Sab, nel Bihar? È là che sono nato». Tridib scosse il capo. Saif ud-Din strinse le labbra con disappunto. «È un peccato. Al ritorno dovete andarci a far visita a Motihari. È un bel posto, anche se adesso ci sono gravi disordini laggiù». «Come si guadagna da vivere, Khalil?» chiese la nonna. «Ha un risciò a pedali», disse Saif ud-Din, «e si arrangia con dei lavoretti qua e là. Quanto basta per mantenere la moglie e i bambini? Le cose funzionavano quando Ukil Babu guadagnava un po' di denaro, ma adesso che è costretto a letto, non so come se la cavano». Si accarezzò il mento con aria pensierosa. «Devono esserci degli alberghi a Motihari adesso», disse a Tridib. «Credo che ci siano dozzine di sale cinematografiche». «La moglie di Khalil gli fa anche da mangiare?» chiese la nonna sbalordita. «Certo», rispose Saif ud-Din. «Se non lo facesse, quel vecchio uomo non mangerebbe nulla». La nonna scambiò con Maya Debi un'occhiata piena di meraviglia. «Lo sai», sussurrò a Robi, «che c'è stata un'epoca in cui quel vecchio uomo era così ortodosso che non avrebbe permesso all'ombra di un musulmano di passare a meno di 3 metri dal suo cibo. E adesso guardalo, paga il prezzo dei suoi peccati». 3 metri, sussurrò Robby stupefatto a May, meravigliandosi della precisione della misura. Poi rivolto alla nonna, «Ma come faceva a misurare la distanza? Teneva 1 metro in tasca mentre mangiava?» «No, no», disse con impazienza la nonna. «A quell'epoca molta gente seguiva regole del genere. Era una questione d'istinto. Trigonometria! gridò Robby avvicinandosi trionfante a May. Probabilmente conoscevano la trigonometria, probabilmente la calcolavano come una somma. Se il musulmano è in piedi sotto un edificio alto 20 metri, quanto è lontana la sua ombra? Vedi? Vedi, noi siamo molto più intelligenti di voi. Scommetto che tuo nonno non avrebbe saputo dire quando un'ombra tedesca passava a meno di 3 metri dal suo cibo. Come ha fatto Khalil a trasferirsi in questa casa? Stava ora chiedendo Tridib. Era stata requisita dal governo e divisa o qualcosa del genere? No, disse Saifuddin leggermente sorpreso. È arrivato come tutti noi, solo un po' dopo. Non lo sapete. Dopo la partizione, Ukil Babu andava in giro alla ricerca di gente che venisse ad abitare nella casa perché temeva che la famiglia di suo fratello tornasse a reclamare la sua parte. Stava sul cancello e invitava la gente a entrare. I suoi figli se ne sono andati molto tempo fa, nessuno sa dove. Un figlio si è fatto vivo una volta, ma Ukil Babu lo ha mandato via. Khalil è arrivato molto tempo dopo di noi. Si è presentato con la sua famiglia e Ukil Babu gli ha permesso di restare. Da allora Khalil si è occupato di lui. Diede loro un'occhiata rapida, di sbieco. Naturalmente, aggiunse, le cose stanno diventando molto difficili per lui adesso. Non se lo potrà permettere a lungo. Povero uomo, disse la nonna scuotendo la testa, pensi che acconsentirà a venire con noi? Chi lo sa? Saifuddin alzò le braccia al cielo. È vecchissimo e non è del tutto lucido. Non riconosce più le persone. È per questo che dovete aspettare Khalil prima di andare da lui. Potreste avere difficoltà a convincerlo a partire. È invecchiato qui. Io non sono riuscito a convincere mio padre a lasciare Motihari per venire in Pakistan con noi. Era invecchiato là. Ma dovete tentare, non ci sono alternative. Lo squillo acuto di un corno di gomma risuonò nel vicolo. Un attimo dopo un risciò sfrecciava attraverso il cancello inclinandosi pericolosamente ed entrava nel cortile come un bolide. Il conducente era in piedi su un solo pedale, pronto a saltar giù.